Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Stringendo tra le dita un nastrino e fiutando l'odore della pelle, Stampede si avvicinò nuovamente al 124. «Sono stanco fino al midollo», pensava. «Sono sempre stato stanco. La stanchezza ce l'avevo nelle ossa, ma adesso ce l'ho nel midollo. Deve essere quello che ha provato Baby Sachs quando si è messa a letto e per il resto della vita non ha fatto altro che pensare ai colori. Dio l'aveva confusa. E lei si vergognava troppo di lui per dirlo. Disse invece a Stampede che andava a letto a pensare ai colori delle cose. Lui cercò di dissuaderla. Seth era in prigione con la poppante, quella che lui aveva salvato. I bambini in cortile si tenevano per mano col terrore di staccarsi. Gli estranei e i conoscenti passavano di lì a sentire per l'ennesima volta com'era andata e all'improvviso Baby Sachs proclamò la pace. A un certo punto lasciò tutto e se ne andò. Quando Seth fu liberata, la vecchia donna aveva ormai esaurito il blu ed era a buon punto col giallo. «Tutto quello che devo fare è andarmene a letto e starmene distesa. Voglio concentrarmi su quello che di innocuo c'è a questo mondo». «Di che mondo vai parlando? Non c'è niente di innocuo qua giù». «Sì che c'è. Il blu, quello non fa male a nessuno, e neanche il giallo. Ti vuoi mettere a letto a pensare al giallo? Ma a me il giallo piace». «E poi che altro? Quando hai finito col blu e col giallo, che altro fai?» «Oh, non te lo so dire. Non è qualcosa che si può sapere prima». «Tu stai dando la colpa a Dio», disse lui. «Ecco che cosa stai facendo». «No, Stamp, non è vero. Mi vuoi dire che l'hanno vinta i bianchi? È questo che mi vuoi dire?» «Io dico che sono venuti nel mio cortile». «Mi vuoi dire che niente è importante?» «Io dico che sono venuti nel mio cortile». «È stata Seth a farlo. E se non fosse stata lei?» «Mi vuoi dire che Dio ci ha abbandonato? Non c'è rimasto altro che versare il nostro stesso sangue?» «Io dico che sono venuti nel mio cortile». «Tu stai punendo lui, non è così?» «Mai come lui ha punito me». «Non puoi farlo, baby. Non è giusto». «Una volta lo sapevo quello che era giusto. Lo sai ancora. Quello che so è quello che vedo. Una negra che se ne va in giro trascinando delle scarpe». «No, oh, piantala, baby». Si passò la lingua sulle labbra, alla ricerca di quelle parole che le avrebbero fatto mutare idea, che le avrebbero alleviato il peso. «Dobbiamo essere forti. Anche queste cose passeranno». «Che cosa cerchi? Un miracolo?» «No», rispose lei. «Cerco quello che devo cercare qui, la porta sul retro». E ci si diresse subito col suo passo saltellante. Stampede riprese il suo cammino. Era troppo arrabbiato per accompagnarla a casa e ascoltarla ancora. Ora, mentre cercava di raggiungere il 124 per la seconda volta, si rammaricava per quella conversazione. Il tono altezzoso che aveva avuto, il suo rifiuto di capire l'effetto che il midollo stanco poteva avere su una donna che lui credeva una montagna. Ora, troppo tardi ormai, la capiva. Il cuore che erogava amore, la bocca che pronunciava la parola, queste cose non contavano. Erano comunque andati nel suo cortile e lei non poteva né approvare né condannare l'aspra scelta di Seth. Una cosa o l'altra. E avrebbe potuto salvarsi, ma schiacciata dal peso di entrambe. Aveva scelto il letto. I bianchi, alla fine, erano riusciti a stancare Baby Sachs. E anche lui. Era il 1874 e i bianchi erano ancora scatenati. Città intere ripulite dalla presenza dei neri. 87 linciaggi in un anno. Solo nel Kentucky 4 scuole di colore distrutte dal fuoco. Adulti frustati come fossero bambini. Bambini frustati come fossero adulti. Donne nere violentate dalle ciurme. Furti di proprietà. Colli spezzati. Sentiva l'odore della pelle. Della pelle e del sangue caldo. La pelle era una cosa. Però il sangue umano cotto nel fuoco di un linciaggio era ben altro. Si sentiva il fetore. Si levava dalle pagine del North Star, dalle bocche dei testimoni, ma niente di tutto quello aveva stancato il suo midollo. Niente di tutto quello. Era stato il nastrino. Mentre era lì che legava la sua chiatta alla sponda del Licking River, assicurandola meglio che poteva, s'era accorto che sul fondo c'era qualcosa di rosso. Nell'allungarsi per prenderlo, pensò fosse la piuma di un uccello cardinale rimasta incastrata nella barca. Tirò con forza e ciò che si ritrovò in mano fu un nastrino rosso, annodato attorno a un ricciolo di capelli lanosi e bagnati, ancora attaccati alla loro piccola porzione di scalpo. Sciolse il nastro, se lo mise in tasca e gettò il ricciolo tra le erbacce. Dopo aver frainteso Baby Sachs, dopo averla rimproverata, dopo essere stato in debito con lei, ora aveva bisogno di farle sapere che sapeva, di mettere le cose a posto con lei e con i suoi. Così, nonostante il suo midollo esausto, tenne duro e continuò ad avanzare in mezzo alle voci, cercando ancora una volta di bussare al 124. Questa volta, anche se non riusciva a decifrare una sola parola, credeva di aver capito di chi erano quelle voci. Della gente dai colli spezzati, del sangue cotto sul fuoco e delle ragazze nere che avevano perduto il nastrino. Che frastuono! Seth se n'era andata a letto sorridendo, ansiosa di sdraiarsi e di formulare le prove a sostegno delle conclusioni a cui era già balzata, di accarezzare il giorno e le circostanze dell'arrivo di Beloved e il significato di quel bacio nella radura. Invece si addormentò e si risvegliò ancora sorridendo in un mattino scintillante di neve così freddo che poteva vedere il respiro condensarsi. Indugiò un attimo prima di trovare il coraggio di gettar via le coperte e toccare il pavimento gelido. Per la prima volta avrebbe fatto tardi al lavoro. Scesa di sotto, vide le ragazze che dormivano, là dove le aveva lasciate, ma ora si davano la schiena, ciascuna ben imbacuccata nelle coperte, e respiravano contro il cuscino. Il paio e mezzo di pattini giaceva a terra vicino alla porta di casa. Le calze, appese a un chiodo dietro la stufa perché si asciugassero, non si erano asciugate. Seth osservò il volto di Beloved e sorrise. Accese il fuoco in cucina il più silenziosamente possibile, riluttante a svegliare le sorelle, felice di averle ai suoi piedi, addormentate, mentre preparava la colazione. Peccato, sarebbe arrivata tardi al lavoro. Peccato, proprio peccato. La prima volta in 16 anni era proprio un peccato. Aveva sbattuto 2 uova nei fiocchi di Gran Turco del giorno prima. Vi aveva dato la forma di 2 tortine e le aveva fritte aggiungendovi un po' di prosciutto, prima che Denver si svegliasse del tutto e sbadigliasse rumorosamente. «Fa male la schiena?» «Sì, dormire sul pavimento ti fa bene. Fa male da morire. Forse perché sei caduta?» Denver sorrise. «È stato divertente!» Si voltò a osservare Beloved, ancora distesa, che russava leggermente. «Devo svegliarla?» «No, lasciala riposare. Le piace accompagnarti al mattino. Non ti preoccupare, la sveglio poi io», disse Seth. E pensò, «È bello aver tempo di pensare, prima di parlare con lei, di farle sapere che so. Pensare a tutto quello che ora non devo più ricordare. Fare come diceva Baby Sachs, pensarci su e poi mettere giù tutto, una volta per tutte. Poldim aveva convinto che fuori di qua c'era tutto un mondo e che io potevo viverci. Avrebbe dovuto saperlo invece, e lo sapeva e come. Qualunque cosa capita fuori dalla porta di casa mia non mi riguarda. Il mondo è in questa stanza. Qui c'è tutto quello che esiste e tutto quello di cui c'è bisogno. E quando Seth uscì di casa, non vide le impronte, né sentì le voci che stringevano il 124 come un cappio. Trascinandosi nei solchi tracciati di buon'ora dalle ruote dei carri, Seth era tutta contenta al pensiero delle cose che non avrebbe dovuto più ricordare. Non devo ricordare niente. Non devo nemmeno spiegare niente. Lei capisce tutto. Posso dimenticare come ha ceduto il cuore di Baby Sachs, come ci eravamo trovate d'accordo che era la stanchezza senza nemmeno bisogno di un segno esteriore. I suoi occhi quando mi portava da mangiare, posso dimenticare quello? E quando mi aveva detto che Howard e Buglar stavano bene, però continuavano a tenersi per mano e non volevano separarsi. Giocavano così, restavano sempre così, soprattutto quando dormivano. Mi passava la roba da mangiare in un cesto, le cose incartate, piccole quanto bastava per farle passare tra le sbarre, e mi sussurrava le novità. Mr. Baldwin andrà a vedere il giudice nel suo gabinetto, continuava a ripetermi, come se io sapessi quello che voleva dire o quello che lei faceva. Le dame di colore di Delaware, nell'Ohio, avevano scritto una petizione per impedire che mi impiccassero. Posso dimenticare che erano venuti due predicatori bianchi, volevano parlare con me e pregare per me. Dimenticare che era venuto anche un giornalista. Lei mi aveva raccontato le novità e io le avevo raccontato che avevo bisogno di qualcosa per i topi. Lei voleva far uscire Denver da lì e quando io mi ero rifiutata aveva sbattuto le palme l'una contro l'altra. «Dove sono i tuoi orecchini?» mi aveva chiesto. «Dammeli, te li tengo io». Le avevo risposto che li aveva presi il secondino per impedirmi di usarli contro me stessa. Pensava che avrei potuto farmi del male con il fil di ferro. Baby Sachs si era coperta la bocca con la mano. Il maestro ha lasciato la città, m'aveva detto. Ha fatto denuncia e se n'è andato. Ti lasciano uscire per la sepoltura, m'aveva detto. Non per il funerale, solo per la sepoltura. E così era stato. Lo sceriffo m'aveva accompagnato e quando avevo dato il latte a Denver sul carro s'era voltato dall'altra parte. Né Howard né Buglar volevano lasciarsi avvicinare da me, nemmeno per farsi carezzare i capelli. Credo ci fosse parecchia gente, però io vidi solo la cassa. Il reverendo Pike parlava a voce veramente alta, ma io non riuscivo a capire nemmeno una parola, solo le prime due. E 3 mesi dopo, quando Denver ormai mangiava la roba solida e mi avevano lasciato uscire per sempre, ero andata a prenderti una lapide. Però non avevo abbastanza soldi per farla incidere, così l'avevo scambiata, barattata, forse è meglio dire, con quello che avevo. E ancora oggi mi dispiace di non avergli chiesto di scrivere tutto, tutto quanto avevo sentito dire al reverendo Pike. Mia amatissima, quello che tu sei per me. Ma non devo dispiacermi se sono riuscita a farmi fare una parola sola. Posso dimenticare che quanto ho fatto ha cambiato la vita di Baby Sachs. Niente più radura, niente più amici, solo il bucato e le scarpe. Adesso posso dimenticare tutto, perché non appena ho fatto mettere la lapide al suo posto, tu hai cominciato a farci sentire la tua presenza e ad angosciarci alla follia. Allora non capivo, pensavo fossi arrabbiata con me, ma adesso lo so. Anche se eri arrabbiata, adesso non lo sei più, perché sei tornata qui, da me, e ho sempre avuto ragione io. Al di fuori della porta di casa mia non c'è niente. Ho solo bisogno di sapere una cosa. Quanto è lunga la cicatrice? Mentre Seth se ne andava al lavoro, per la prima volta in ritardo dopo 16 anni, avvolta in un presente senza tempo, Stampede lottava contro la fatica e le abitudini di tutta una vita. Baby Suggs si era rifiutata di andare alla radura perché pensava che a vincere fossero stati gli altri, mentre lui rifiutava di riconoscere tale vittoria. La casa non aveva nessuna porta sul retro, così Stamp affrontò coraggiosamente il freddo e il muro di voci per bussare all'unica porta della casa di Baby Suggs. Per farsi coraggio, serrò tra le mani il nastrino rosso che teneva in tasca. Bussò prima piano, poi sempre più forte. Si ritrovò alla fine a pestare furiosamente alla porta, incredulo che una cosa del genere potesse accadere, che la porta di una casa con della gente di colore non si spalancasse subito in sua presenza. Si diresse verso la finestra con la voglia di piangere. Erano lì, ne era sicuro, ma nessuna di loro andò ad aprire la porta. Torturando il suo pezzetto di nastrino fino a ridurlo a brandelli, il vecchio si voltò e scese gli scalini. Ora, al suo senso di vergogna e di dovere, si aggiunse la curiosità. Mentre scrutava dalla finestra, vide due figure rannicchiarsi per sfuggire al suo sguardo. Una aveva una testa a lui familiare. L'altra lo lasciava perplesso. Non la conosceva e non sapeva di chi potesse trattarsi. Nessuno, ma proprio nessuno, andava mai a far visita in quella casa. Dopo una sgradevole colazione, Stampede andò a trovare Ella e John per vedere se ne sapevano qualcosa. «C'è qualcuno? Dove t'hai ricacciato? Ho detto a John che deve fare proprio freddo se Stamp se ne sta chiuso in casa. Oh, sono stato in giro», tolse il berretto e si massaggiò il cranio. «In giro dove? Non da queste parti?» Ella stese due completi di biancheria intima su un filo dietro la stufa. «Sono stato giù da Baby Suggs stamattina». «Che ci sei andato a fare?» disse ella. «Ti ci ha forse invitato qualcuno?» «Sono parenti di Baby. Non ho bisogno di nessun invito per badare ai suoi». Ella rimase inflessibile. Era stata amica di Baby Suggs e anche di Seth, fino a che non erano cominciati i guai. Se si faceva eccezione per il cenno del capo quel giorno al circo, non aveva mai più rivolto il saluto a Seth. «C'è una persona nuova. Una donna. Pensavo che sapessi chi è». «Per quanto ne so, in città non ci sono nuovi neri», disse lei. «Che aspetto ha? Sei sicuro che non fosse Denver?» «Oh, Denver la conosco». «Questa ragazza è più magra». «Sei sicuro?» «So quello che vedo». «Al 124 si può vedere di tutto». «Anche questo è vero». «Meglio chiedere a Paul D, disse lei. «Non riesco a trovarlo», disse Stamp. Il che era vero, anche se i suoi sforzi per trovare Paul D erano stati in verità flebili. Non era pronta ad affrontare l'uomo a cui aveva cambiato la vita con le sue informazioni sepolcrali. «Va a dormire in chiesa», disse ella. «In chiesa?» Stamp era sorpreso e addolorato. «Sì, ha chiesto al reverendo Pike se poteva stare nello scantinato». «Ma là sotto fa un freddo cane! Lo saprà anche lui, no?» «Ma perché fa così?» «È un tantino orgoglioso, a quanto pare». «Non deve fare così. Chiunque lo accoglierebbe in casa». Ella si voltò a guardare Stampede. «Nessuno è buono a leggere nella mente degli altri. Ha solo da chiederlo a qualcuno». «Perché? Perché deve chiederlo? Nessuno è più capace d'offrirsi? Ma che cosa sta succedendo? Da quando in qua un nero che viene in città deve dormire in cantina come un cane?» «Non t'agitare, Stamp». «E invece sì, io mi agito fino a quando non c'è qualcuno che riprende a ragionare come si deve e si comporta un minimo da cristiano». «È lì solo da qualche giorno. Non dovrebbe esserci nemmeno da un giorno. Tu sai tutto e non gli dai una mano. Non sembri nemmeno più tu, Ella. Sono più di 20 anni che io e te tiriamo fuori dai guai la gente di colore. Adesso mi vieni a dire che non puoi offrire un letto a un uomo. A un uomo che lavora, per giunta. A un uomo che può pagare per la sua parte. Se chiede, io gli do quello che vuole». «Ma perché chiedere è diventato così importante tutto a un tratto? Non è che sappia tanto di lui». «Beh, sai che è uno di colore. Stamp, non provocarmi stamattina. Non ne ho voglia». «È per lei, non è così?» «Lei chi?» «Seth. Si sono messi insieme e lui è rimasto lì e tu non vuoi avere niente. Basta così! Non saltare subito alle conclusioni se non sai di che cosa parli! Ragazza mia, lascia perdere. Siamo amici da troppo tempo per fare così. Beh, chi può dire quello che è successo là dentro? Per quanto mi riguarda, io non so chi è Seth, né chi sono i suoi. Che cosa? Tutto quello che so è che ha sposato il figlio di Baby Sax e neanche di quello sono sicura. Lui dov'è? Eh? Baby non l'ha mai vista prima, finché John non l'ha condotta alla porta di casa sua con una bambina che io le ho legato al petto. Quella bambina l'ho legata io. Sei completamente fuori strada, anche se tu non sapevi chi era, lo sanno i suoi figli. E con questo? Non ti sto dicendo che non era la loro mamma, ma chi può dire che erano i nipoti di Baby Sax? Come mai lei è riuscita a farcela e suo marito no? E dimmi un po' questo, come ha fatto ad avere quella bambina nei boschi tutta da sola? Oh, ha raccontato che dagli alberi è spuntata fuori una bianca e l'ha aiutata, figuriamoci. E tu ci credi? Una bianca? Beh, lo so io che tipo di bianca era quella. Oh, Noel, qualsiasi cosa bianca che se ne va per i boschi, se non ha il fucile, è qualcosa con cui io non voglio avere proprio niente a che fare. Eravate amiche, sì, fino a quando non si è rivelata per quello che è. Ella, io non ho amiche che usano la sega contro i figli. Tu sei in alto mare, ragazza mia. No, no, no, io sono sulla terraferma e ci voglio restare. Sei tu quello in alto mare. Dimmi che cosa c'entra quello che stai dicendo con Poldi. Che cosa è stato a farlo andar via? Dimmelo. Sono stato io. Tu? Gli ho raccontato di... Gli ho fatto vedere il giornale su quello che aveva fatto Seth. Gliel'ho letto. Se n'è andato quel giorno stesso. Non me lo avevi detto? Non lo sapeva? Non sapeva niente. La conosceva dai tempi in cui erano nello stesso posto dove era Baby Sax. Conosceva Baby Sax? Certo che la conosceva. E anche suo figlio, Hall. E se n'è andato quando ha scoperto quel che ha fatto Seth? A quanto pare ha trovato un posto dove stare. Quello che mi dici mette le cose sotto un'altra luce. Io pensavo Mustang Paid sapeva già quel che lei pensava. Però tu non eri venuto qui a chiedere di lui, disse ella. Eri venuto a chiedere di una ragazza nuova. Già, è così. Beh, Poldi saprà chi è. O che cose? Ah, tu hai in testa solo gli spiriti. Dovunque guardi ne vedi uno. Lo sai bene quanto me che quelli che muoiono di morte violenta non restano sottoterra. Stamp non poteva negarlo. Era successo anche a Gesù Cristo. Così mangiò un pezzo dello zampone fatto da ella per dimostrare che non le serbava rancore e partì alla ricerca di Poldi. Lo trovò seduto sui gradini del Santo Redentore. Si teneva i polsi tra le ginocchia e aveva gli occhi arrossati. Ancora un'altra svolta e Seth poté vedere il camino di casa sua. Non aveva più un aspetto solitario. Il nastro di fumo si levava da un fuoco che riscaldava quel corpo che le era stato restituito, proprio come se non fosse mai andato via, non avesse mai avuto bisogno di una lapide. E il cuore che in esso batteva non si era fermato un solo momento nelle sue mani. Aprì la porta, entrò dentro e la richiuse dietro di sé. Il giorno in cui Stampede vide le due figure di schiena attraverso la finestra e poi si affrettò a scendere gli scalini, credeva che la lingua indecifrabile, il cui clamore circondava la casa, fosse il mormorio iroso dei neri morti. A essere morti nel letto, come Baby Sax, erano molto pochi, e nessuno di quei pochi aveva conosciuto una vita decente, compresa Baby Sax. Anche la gente di colore istruita, quelli che avevano studiato a lungo, i dottori, gli insegnanti, i giornalisti e gli uomini d'affari, avevano le loro gatte da pelare. Oltre a dover far uso della propria testa per tirare avanti, avevano su di sé il peso di un'intera razza. Per fare una cosa del genere ci volevano due teste. I bianchi credevano che qualunque fosse il livello di educazione, sotto ogni pelle scura si nascondesse una giungla. acque vorticose non navigabili, babuini che si dondolavano gridando, serpenti addormentati, gengive rosse pronte a succhiare il sangue dolce dei bianchi. In un certo senso, pensò, avevano ragione. Più la gente di colore si sforzava di convincerli di quanto fosse gentile, intelligente, affettuosa e umana, più essa si usava a pretesto per persuadere i bianchi di qualcosa che i neri credevano fosse fuori discussione, e più la giungla dentro si faceva fitta e intricata. Ma non era la giungla che i neri avevano portato con sé in quel posto dall'altro posto vivibile. Era la giungla che i bianchi avevano piantato dentro di loro. E cresceva, e si allargava prima, durante e dopo la vita, fino a coinvolgere i bianchi stessi che l'avevano creata. Li toccava uno per uno, li cambiava e modificava. Li rendeva crudeli, stupidi, più di quanto non volessero esserlo, tanto erano spaventati da quella giungla di loro creazione. Sotto la loro pelle bianca vivevano i babbuini urlanti. Le gengive rosse erano le loro. Nel frattempo, l'estendersi segreto di quel nuovo tipo di giungla avveniva di nascosto, in silenzio. Fatta eccezione per quelle rare volte in cui era possibile sentire il suo biascichio in posti come il 124. Stampede aveva rinunciato ai tentativi di vedere come stava Seth. Dopo essersi preso la briga di andare a bussare alla sua porta e non avere ricevuto risposta, e dopo che ebbe fatto questo, il 124 fu abbandonato ai propri piani. Quando Seth richiuse la porta, le donne dentro erano finalmente libere di essere quel che volevano, di vedere qualunque cosa volessero e di dire qualunque cosa passasse per la loro mente. Quasi. Mescolati alle voci che circondavano la casa, riconoscibili ma indecifrabili per Stampede, c'erano i pensieri delle donne del 124, pensieri inesprimibili e inespressi. Maria Paiato ha letto Amatissima di Toni Morrison, traduzione di Giuseppe Natale. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.